Erano i Death Spirals, il pezzo si chiama Wild Catalyst e l'ho trovato per caso su SoundCloud, che è esattamente quello che sto risuonando in questo momento. E dicevamo, benvenuti a Coxo Spaziale, questa è la 207ª puntata, siamo come al solito in macchina perché ormai abbiamo deciso che è piuttosto coxico registrare le puntate in macchina, e lo stesso vale per SoundCloud, piuttosto, cioè quando su SoundCloud si trova un pezzo coxico come questo, che bisogna fare? Bisogna suonarlo a Coxo Spaziale. E perché effettivamente c'è da dire che tutti questi social, soprattutto quelli creativi tipo Instagram, SoundCloud, eccetera, sono molto utili, soprattutto quando la nostra fervida città manca un po' di stimoli, per cui in una puntata come questa, quella di oggi, visto che le cose da raccontare sono abbastanza poche, effettivamente si fa presto a infilarsi dentro internet e trovare dei pezzi tipo il prossimo che stiamo che mi appropinco a farvi sentire, che è di una cantante coreana che appunto ho visto prima, non la conoscevo assolutamente, ho visto prima nell'account di questa giovine fotografa coreana che seguo su Instagram, e lei ha postato quello che stava ascoltando, così per curiosità soprattutto sono andato a vedere esattamente che cosa stava ascoltando, e adesso ce lo ascoltiamo anche noi. Pezzo era Kim Yeon-ja, Happiness to me is when I'm singing. No, in realtà si chiama qualcos'altro, ma no, non fa niente. Lo troverete da domani su www.coxospaziale.blogspot.com. Ed era il pezzo che oggi, anche di nuovo siamo registrati, Occupied Zone, una mia amica di Instagram, ascoltava. I 2 minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Well, ciao everybody, buona Pasqua, eh? Tanti auguri a tutti, siamo qui stasera con un po' di amici. C'è uno dalla United States, all the way from Minnesota, Gianni sulla saxofone qui. C'è una direttamente da Mongidoro. C'è il grande amico qui, Riccardo Lolli. Abbiamo avuto un po' di problemi, ma sembra che siamo posti. Allora. I wanna dance all night. I'm feeling so good tonight. I wanna lose my head. I wanna raise the dead. Well, don't care what no one thinks now, 'cause I'm gonna buy the drinks now. Just wanna tell this world that I've got this sleeping girl. Tonight's the night. Night of bar, night of bar, night of bar. Tonight's the night, night of bar, night of bar, night of bar. Già finito? Coxo spaziale! Sono reduce dalla mostra di Erin Schiraff al Salone Banca di Bologna di Palazzo De Toschi in Piazza Minghetti e devo dire che la mostra è interessante, anche se non è che mi abbia fatto impazzire. C'è questo video di 45 minuti di questa eclisse artificiale. Ma la cosa che, e anzi consiglio caldamente tutti voi, di, se passate da queste parti, di entrare e vedere questa mostra, la cosa che mi è piaciuta in assoluto sono il lavoro di questi media giovani mediatori culturali che ci raccontano la mostra e lo fanno con una passione tale che veramente ti viene da volere bene sia all'artista che soprattutto a loro. Sì, sono giovani studenti dell'Accademia di Belle Arti che appunto hanno il compito di avvicinare il pubblico generico, presumo, o comunque il pubblico a queste occasioni di arte contemporanea. Devo dire che stanno facendo un lavoro veramente interessante ed è proprio appunto è proprio grazie a loro che vi consiglio di venire a vedere questa mostra. Questa mostra sta su fino al 4 marzo, l'ingresso è gratuito ed è appunto a Palazzo De Toschi, che è il palazzo delle poste che trovate in Piazza Minghetti, aperta tutti i giorni, per cui non mancate di venire a vedere questa mostra di Erin Schiraff. Detto questo, ascoltiamoci un altro pezzo che ci arriva dai simpatici amici della Broom Rush Promotions, è un pezzo reggae, tanto per cambiare, si chiama Use Your Time e questo è Joel Pilgrim and the Ligerians. Yeah! eccoci arrivati a l'angolo della menzione. Stasera ne abbiamo un po' di menzioni, questo un po' alto, eccoci qua. Dicevamo, allora, cominciamo con domenica 18 febbraio alle 17.30, La luce della memoria, interventi di Vincenza Maugeri, direttore del MEB, e Maria Luigia Casalengo, presidente dell'Inner Wheel Club di Bologna, Andrea Maioli, responsabile della cultura del Resto del Carlino, che è una conferenza al Museo Ebraico di Bologna, questo era EMEB. Nell'occasione verrà presentata la donazione dell'opera di Francesco Paglia, The Forgotten Funeral, il funerale dimenticato. Questo al Museo Ebraico di Bologna in via Valdonica 1-5, ad ingresso libero, domenica. Dove siamo? Eccoci qua. Voilà. Invece andiamo avanti, abbiamo lunedì 19 febbraio Time Changes Space, Space Changes Time, il racconto dello spazio e del tempo tra Palermo e i deserti nordamericani. Incontro e dialogo con Giorgio Vasta, modera Alberto Sebastiani. Questo è al Loft Chinodromo in via San Rocco 16, apertura Loft ore 19. E l'incontro alle 19.30 fino alle 21, ingresso con tessera AIX. A seguire abbiamo Sicilian Ghost Story, regia di Fabrizio Grassadonia e Antonio Piazza, Italia 2017. Questo è l'Inchinodromo Europa Cinema alle ore 21.15, ingresso 5 euro con la tessera AIX, e se volete altre informazioni trovate tutto su www.chinodromo.org. Mercoledì 21 febbraio alle ore 18, invece, dopo il clamoroso successo al Cinema Lumière della serata dedicata al dissenso sovietico, il 5 febbraio di questo mese scorso, la rassegna, ideata e organizzata dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con la Galleria De Foscherari, continua presso la Galleria con il nuovo cinema dell'Europa orientale e la videoarte russa. Questo mercoledì alle ore 18 abbiamo Gli amori di una bionda del 1965, regia di Milos Forman, il principale rappresentante della nuova ondata del cinema cecoslovacco. Questo alla Galleria De Foscherari in via Castiglione 2B, l'ingresso è libero e il sito è www.defoscherari.com. Sempre mercoledì, sempre alla stessa ora, più o meno alle 18.30, invece abbiamo Fabio Mondadori che presenta il suo libro Ombre di vetro. Torna Fabio Mondadori in libreria e torna il suo ispettore Naldi, chiamato a risolvere i misteri. In anteprima, mercoledì, Fabio presenterà il suo giallo appena uscito, Ombre di vetro, Bologna non muore mai, Dumpster Edizioni, collana Comma 21. Le letture saranno a cura di Deborah Ponnetti, accompagnata da Romano Romani. Intervengono Luca Occhio e Chiara De Magistris, e abbiamo sentito il nostro autore Fabio Mondadori al telefono. Siamo qui con Fabio Mondadori, autore del romanzo che si intitola Ombre di vetro, Bologna non muore mai, ed è il tuo nuovo romanzo giallo, giusto? Sì, è un romanzo thriller noir che vede come protagonista Cesare Naldi, che è anche previsto dal romanzo precedente, e insomma questa è la sua nuova avventura. A che numero siamo di romanzi gialli? Romanzi siamo al terzo romanzo, okay. Libri sono quattro, perché il primo è stato un'antologia, il primo è un'antologia e quattro romanzi, Sorti Viola e poi, sì. E tu verrai a Bologna a presentarlo il 21, sì, giusto? Che sarebbe mercoledì della settimana prossima. Mercoledì prossimo sono alla UBIC Irnerio, in via Irnerio 27, lì insomma presenterò il libro, faranno delle letture, mi presenterà Luca Occhi e Chiara De Magistris, sono i due relatori. Fantastico, per cui che cosa ci dobbiamo aspettare da questo nuovo romanzo? Potete aspettare un'indagine con una forte componente psicologica, trattandosi di un noir, e comunque di conoscere un serial killer piuttosto efferato, diciamo, nei modi di colpire. Insomma, poi magari se mette la presentazione ne saprete di più e leggendolo ancora di più, ecco. Però diciamo che questo commissario Naldi, che appunto abbiamo visto per la prima volta nel romanzo precedente, che è un sopravvissuto alla strage di Bologna e da questa strage è uscito cambiato, e poi scoprirete come. Fantastico, bene, allora invitiamo tutti mercoledì 21 alle ore 18, hai detto? 18.30 alla UBIC di Via Nerio sentiremo Fabio, cioè vedremo, incontreremo l'autore Fabio Mondadori e anche sentiremo appunto pezzi di questo romanzo. Io ti ringrazio moltissimo e ci vediamo mercoledì. Ci vediamo mercoledì, ciao. Ciao. Non l'ascolterò mai. Bene, terminate le menzioni, torniamo con un po' di musica e stavolta invece ci ascoltiamo, il bello di SoundCloud è proprio quello, ci ascoltiamo una cover dei Ramones, perché il bello di SoundCloud appunto è che potete cercare qualunque canzone che magari vi piace e troverete delle cover abbastanza particolari. Questa è di Max Gardner e la canzone è Baby I Love You. che se non sbaglio era già una cover. No, non era una cover, non mi ricordo. Questo è sempre Coxo Spaziale, siamo a venerdì 16 febbraio e ricordatevi una cosa, the internet is awesome. Antiquity, the Middle Ages, the Renaissance, the Industrial Revolution, the internet. But it used to fit on a single computer. And now we have no idea how big it is. We do know that there are over 4 billion pages live on the internet, almost 1 million apps downloaded every hour, about 250 billion emails sent every day, and that 1 in 6 marriages occurs because the couple met online. We'll be right back. Angelo ogni tanto, al colmo della pace, ha necessità di commuoversi, aggrapparsi a qualsiasi cosa, idea, persona può servire per non cadere. Dissegna, questa volta intrecciando piccoli rami di alloro dorati, trama o corona da porre su un cielo di Geoffrey Hendrix. Testimone Caterina Gualco. Questa è una delle performance virtuali, cioè anzi non virtuali ma descritte su Facebook, di Angelo Pretolani, che è una serie di lavori sotto il titolo di Sotto il selciato c'è la spiaggia. Ogni venerdì Angelo, di cui troverete su www.coxospraziale.blogspot.com il sito, il link per andare a vedere queste performance, ogni venerdì appunto Angelo pubblica una performance e noi invece ogni venerdì facciamo questo Coxo Spaziale e come tutti i venerdì a una certa ora la trasmissione finisce con le parole del nostro caro direttore. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. A venerdì prossimo. Oggi sono troppo stanco, mi sveglio sempre alle 4 del mattino. Ciccio, mi vesto troppo veloce, non riesco a fare colazione. Scendo le scale, mi aspetta il pandino per il lavoro. Quanta carto, quanto giacolo duro che mi aspetta corco cane in tutta la giornata. Sono troppo stanco dietro al camioncino, era meglio a casa con il tutoro. Sono troppo stanco dietro al camioncino, era meglio a casa con il tutoro. Io sto morendo, forse sto svenendo per l'odore molto slano. Ciccio, corco cane l'ho trovato, era l'umido imboscato. Mi rompo sempre le cioglioni a fare l'umido. Quanta carto, quanto giacolo duro che mi aspetta corco cane in tutta la giornata. Sono troppo stanco dietro al camioncino, era meglio a casa con il tutoro. Sono troppo stanco dietro al camioncino, era meglio a casa con il tutoro. Tutoro, tutoro. Corro, corro col pandino, niente più camioncino, sembro quasi un caratino. Torno a casa col sorriso che mi aspetta il leccino per un grande cionellino. Sono troppo stanco dietro al camioncino, era meglio a casa con il tutoro. Sono troppo stanco dietro al camioncino, era meglio a casa con il tutoro. Sono Claire Underwood ed anch'io ascolto Coxo Spaziale. You know I still love you, baby. And it'll never change. Vai, 내려